comporta fondamentalmente la morte della vita e la sostituzione della vita attraverso processi di sintesi e di sostituzione che noi chiamiamo il macchinismo, che si contrappone alla vita. Attualmente non è che è possibile contrapporre lo spazio di ruralità verso lo spazio di urbanità, è una cosa impossibile ormai, perché, ripeto, la rete di segni, di simboli, di costruzioni, di complesse situazioni che sono create comporta che vi sia uno spazio unico in cui si ramificano i rapporti di potere, di produzione e di consumo che avvengono su spazio planetario, indipendentemente dal fatto di vivere al centro di Milano o in una collina della regione toscana. Identicamente riguarda la questione, diciamo così, antropologica, la questione delle persone che vivono in questi spazi urbani, che troppo comodamente vengono chiamati ancora contadini e cittadini. Cioè i cittadini, quelli che vivono nello spazio urbano, e i contadini che vivono nello spazio rurale. Non è più così. I processi migratori che sono avvenuti e che continuano ad avvenire a livello planetario comporta che gran parte di noi che vive negli spazi urbani ha dei geni culturali, dei geni storici, delle esperienze che provengono invece dalla ruralità che si è vissuta. E viceversa, coloro i quali hanno continuato e sono nati in città e i loro genitori hanno vissuto come operai, come impiegati, come dirigenti in città, hanno continuato a interscambiare segni, simboli, tutta questa sensibilità di cui si parlava prima, anche con gli spazi rurali. Fondamentalmente questi modelli di contadinità e di cittadinità non danno più alcun senso e significato definitivo dei rapporti di produzione e di potere che vi sono nella realtà contemporanea. Esistono infatti ciò che noi abbiamo definito nuovi movimenti di contadinità e di cittadinità che comportano una profonda trasformazione dei rapporti di produzione. Dovuti a che cosa? Dovuti al fatto che i contadini classici, cioè quelli che in Italia per esempio derivavano dalla fine dei rapporti di produzione precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, cioè quelli dei rapporti agrari prima della riforma, fondamentalmente, hanno subito i processi di industrializzazione dell'agricoltura in maniera così massiva, in maniera così totale, per cui sono stati semplicemente un effetto marginale, un effetto di povertà, un effetto di miseria, un effetto di ignoranza, un effetto di deprivazione che ha comportato l'emarginazione pressoché totale del ruolo dell'agricoltura e degli agricoltori nello spazio economico e culturale dell'intero pianeta e anche particolarmente in riferimento all'Italia. Cioè negli ultimi secoli fondamentalmente, negli ultimi due secoli, quando si parla di campagna si parla di povertà, si parla di miseria, si parla di ignoranza, si parla di deprivazione, si parla di arretratezza, si parla di identità perimetrate, si parla di reazione, si parla di Vandea. Quando si è parlato di campagna negli ultimi due secoli si è fatto riferimento a queste cose qua, a parte pochi splendidi esempi di lotte, di rivolte contadine, i rapporti in agricoltura erano così. Viceversa è stata la città il luogo della democrazia, il luogo della rivoluzione, il luogo della trasformazione progressiva, il luogo dello sviluppo. Cioè gli spazi urbani e rurali sono stati simbolicamente rappresentativi di serie contrapposte di identità. In questo momento non è più così, non è più così. Dalla terra, ma questo a livello internazionale, non a caso Marx faceva riferimento ai Semterra o altre esperienze come la Confederazione Paysanne in Francia, da spazi rurali internazionali sono arrivati esempi straordinari di profonde rivoluzioni, ancora in nuce, ancora in embrione, ma che hanno tentato di modificare il rapporto di produzione nella realtà contemporanea di livello planetario. Questo per quale motivo? Perché un processo di fagocitazione, come è avvenuto di quegli spazi, significa la morte non soltanto per la campagna, per gli spazi rurali, per gli agricoltori, per la loro economia, ma comporta un immiserimento totale della vita di questo pianeta e della possibilità che essa continui anche nelle città. E questo è il dato di realtà sul quale fare i conti. E dunque, questo modello di nuova contadinità planetaria al quale noi facciamo riferimento non è un caso che non nasce dalle campagne, nasce dalle città, gran parte degli agricoltori, da gran parte dei contadini che noi abbiamo contattato, che hanno rapporti con noi, sono agricoltori che provengono dalla città, che hanno rifiutato il modello urbano, hanno studiato in città, hanno fatto le università, hanno fatto le lotte operaie, hanno fatto le lotte studentesche, hanno subito prima e poi profondamente contrastato i rapporti di produzione nella città, la vita, i modelli di vita che si componevano e contrastavano la propria sensibilità nella città. Da quel rifiuto è nato un movimento di riruralizzazione che ha comportato però nuove lotte all'interno degli spazi rurali, proprio perché quella campagna era ormai una campagna devastata dai rapporti di produzione della città. E quindi in questo momento avviene un doppio legame positivo di trasformazione della terra, ma di necessaria e fondamentale trasformazione della città. Se qualche agricoltore straordinario che noi abbiamo conosciuto, sono centinaia oramai, che crede nel proprio lavoro e fa con amore un lavoro splendido nella campagna, non si incrocia con un movimento di cittadinità, cioè con rapporti che nella città tendono a modificare gli stili di vita, tendono a modificare i comportamenti quotidiani, le modalità di consumo e di produzione, le modalità di attraversare il tempo nella città, e anche la rappresentanza politica, anche la produzione, cioè di trasformazione radicale nella città. Questi agricoltori, questi cari amici e compagni che lavorano con amore nella campagna, sono destinati a morire di solitudine nella campagna perché non trovano riscontro nella città. Era come, per fare un esempio rivoltato, quando si facevano nelle prime grandi città operaie dell'Ottocento, quando si facevano le rivolte, si attendeva che non arrivasse la Vandea. Se dalla campagna arrivava la Vandea, la rivoluzione era sconfitta. In questo momento sta succedendo il contrario, cioè se dalle capacità di trasformazione che dalle campagne, dalla ruralità, da questo movimento di nuova contadinità è partito, non c'è un versante sensibile che riesce a cogliere l'importanza di queste trasformazioni e riesce a rifiutare le modalità di produzione nelle città, che sono il fulcro naturalmente della vita della terra contemporanea, perché lì vivono il 70, l'80, il 90, il 95 a volte per cento della popolazione in alcune aree del pianeta, secondo dei paesi. È evidente che lasciamo da soli questi movimenti di nuova contadinità. Appunto per questo io credo che gli spazi di contadinità e di cittadinità devono essere vissuti in maniera ovviamente non contrapposta. Identicamente, e concludo per il momento, è la questione dell'ultima sensibilità che bisogna cogliere, e cioè quella del carattere non antagonistico tra produzione e consumo. In questo momento qualsiasi produttore ha di fronte, si sente come il relato in un rapporto di assoluto antagonismo con i consumatori, con i cosiddetti consumatori, perché ciascuno che per vivere deve consumare qualcosa ha bisogno di riconoscersi in qualità di produzione, in rapporti di produzione, in prezzi. Riconoscersi o non riconoscersi dipende se ha la possibilità o no, se ha la conoscenza o no, se ha le relazioni sociali che gli comportano questa possibilità di conoscenza. In ogni caso è il relato in un rapporto di antagonismo. In questo rapporto di antagonismo sia i produttori sia i consumatori sono profondamente immiseriti da circuiti di grande distribuzione e commercializzazione che oggi costituiscono il centro focale dell'appropriazione e della riappropriazione della ricchezza a livello planetario. E quindi continuare in questo antagonismo coartato è un meccanismo di impoverimento totale. Appunto per questo noi abbiamo iniziato ad utilizzare questo termine, che è il termine di coproduzione. Ciascuno di noi contemporaneamente produce dei beni e dei servizi e ne consuma altri, e non deve avere in assoluto antagonismo il lavoro, la sensibilità, l'amore, le conoscenze che in altri campi altri produttori hanno. Siamo irrelati in un meccanismo unico. In questo meccanismo unico dobbiamo trovare le modalità di conoscenza, di lotte, di conflitto, di solidarietà, di coinvolgimento, di sensibilità che comportino interessi comuni. Interessi comuni vuol dire anche interessi economici, non soltanto interessi, come dire, di carattere culturale, come è giusto che ci siano. Appunto per questo, a partire da questo, da questi molto banalizzati in questa piccola relazione schemi teorici, noi abbiamo fatto una serie di proposte che possono connaturare, a nostro avviso, modalità differenti di produzione e di consumo. Il modello dell'autocertificazione, che si contrappone in maniera totale, no, a questo balzello per il quale ormai per vivere bisogna essere certificati. Non è che si certifica solo il produttore biologico, si certifica l'insegnante, si certifica l'infermiere, chiunque si certifica, perché senza la certificazione non è possibile vivere, cioè non è possibile vendere al mercatino, non è possibile insegnare, non è possibile far nulla, no? E ciascuno di noi paga questo balzello, lo paghiamo tutti, perché senza di quello non accediamo ai mercati, ma quando tutti accediamo ai mercati abbiamo evidentemente gli stessi effetti come se quella certificazione non ce l'avesse. E viceversa, noi pensiamo che occorre produrre un sistema per il quale, diversamente da quello che succede nei rapporti di produzione contemporanei, ogni produttore abbia il dovere e il diritto di presentarsi al mondo. Diversamente da quello che succede, chi va a comprare un prodotto in una di queste grandi catene commerciali sa che il produttore non esiste, lì non esiste, quello che compra non ha un nome. Il nome che gli viene affibbiato, il nome della grande catena distributiva, è una deresponsabilizzazione totale del rapporto con chi poi consuma, utilizza quella risorsa, quel cibo, quell'alimento, quel bene, ma non c'è la responsabilità individuale e il diritto di chi produce di dire, presentandoci al mondo, questo sono io, questo faccio, con le mie conoscenze, con il mio amore, con le mie capacità, ed è giusto che sia riconoscibile in un nome la possibilità che tutti gli altri abbiano un rapporto fiduciario, un rapporto di comunicazione, un rapporto appunto di reciproca sensibilità tra il lavoro che fa ciascuno e il lavoro che fanno tutti. Questo è un primo problema, e poi l'altro, fondamentale, assolutamente fondamentale, io credo, che è quello del prezzo urgente. Il prezzo urgente è semplicemente il fatto che ciascuno, al momento in cui produce qualcosa, prima di venderla, dovrebbe indicare il prezzo, fondamentalmente, con il quale vende il proprio prodotto. Ecco. Questo abbatterebbe i prezzi in maniera totale, è una cosa semplice. Immaginatevi se in questa bottiglia di vino ci fosse il prezzo al quale il produttore vende il vino, indicato chiaramente in etichetta. Immaginate se ci fosse nelle scarpe, negli orologi, nei bicchieri, in qualsiasi merce che noi consumiamo. Noi siamo contro i prezzi imposti, non vogliamo nessun prezzo imposto, cioè se io produttore vendo sto vino a 3 euro, il commerciante lo può vendere a 50, a 1000, sono cavoli suoi, lo spieghi lui ai consumatori per quale motivo ricarica di 3, 4, 5, 10, 50 volte il prezzo del produttore. Non siamo, ripeto, per i prezzi imposti. Siamo per la tracciabilità, come diceva Mark, dei prodotti e dei prezzi. Tracciabilità dei prezzi però è fondamentale, appunto perché attraverso la tracciabilità dei prezzi chiunque può leggere un processo di riappropriazione, chiunque può capire chi ci guadagna e quanto ci guadagna nella vendita di quel prodotto. È giusto che ciascuno ci debba guadagnare, perché nessuno vive evidentemente di aria, ma ciascun acquirente deve capire qual è la filiera di questo guadagno e dove avvengono i maggiori ricarichi. Il prezzo urgente serve per questo, e avvieremo la filiera con il prezzo urgente in ristoranti, enoteche, eccetera, eccetera, appunto per avviare questo meccanismo. Anche la Confederazione Italiana Agricoltura ha fatto una proposta simile, dico semplicemente perché siamo favorevoli naturalmente, ma pensiamo che non funzioni. Perché la Confederazione Italiana dell'Agricoltura la vuol fare come proposta di legge. E la proposta di legge è un modo buono per bloccare questo movimento. Un modo buono per quale motivo? Perché prima che la legge possa venire imposta dallo Stato, verrà seppellita dalle grandi catene distributive e commerciali, che non hanno alcun interesse a che il prezzo urgente venga applicato. Se invece il prezzo urgente viene applicato dai singoli produttori e dai singoli commercianti, nessuno lo può impedire, devono impedirlo per legge, il che creerebbe problemi enormi. Grazie.